Il terzo anello, ad alta voce. Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll, per Edizioni Feltrinelli. Porco d'un pepe! Per un minuto o due, Alice rimase imbambolata a guardare la casa, incerta sul da farsi, allorché, all'improvviso dal bosco, sbucò di corsa un valletto in livrea. Dedusse che era un valletto proprio dalla livrea, altrimenti, a giudicare dalla faccia, avrebbe giurato che era un pesce. E, raggiunto l'ingresso, bussò con forti colpi cadenzati. La porta fu aperta da un altro valletto in livrea, faccia tonda e occhi sporgenti come una rana. Entrambi i valletti, notò Alice, avevano i capelli incipriati con i riccioli a incorniciargli il muso. Piena di curiosità, strisciò furtivamente fuori dal bosco per ascoltare. Il valletto pesce si sfilò di sotto il braccio una lettera grande quasi quanto lui e la porse all'altro proclamando solennemente: «Per la duchessa, un invito da parte della regina a giocare a croquet». Il valletto rana ripeté con lo stesso tono solenne, cambiando solo l'ordine delle parole: «Da parte della regina, un invito per la duchessa a giocare a croquet». Dopodiché entrambi fecero un inchino e i loro riccioli si ingarbugliarono insieme. Alice scoppiò in una tale risata che dovette correre di nuovo nel bosco per paura che la sentissero, e quando tornò a dare un'occhiatina fuori, il valletto pesce non c'era più e l'altro se ne stava seduto per terra vicino alla porta, con la testa per aria come un citrullo. Alice avanzò timidamente fino alla porta e bussò. «Invano ti affanni a bussare», disse il valletto, «e per due motivi. Primo, perché sto dalla stessa parte della porta in cui sei tu. Secondo, perché con il baccano che fanno là dentro non ti può sentire nessuno». E dall'interno proveniva davvero un rumore incredibile, un continuo urlare, starnutire, e di tanto in tanto uno schianto violento, come di un piatto o un bricco andato in frantumi. «E allora, per favore», disse Alice, «come faccio a entrare?» «Il tuo bussare avrebbe già più senso», continuò il valletto senza prestarle attenzione, «se la porta stesse fra te e me. Per esempio, se tu fossi dentro, potresti bussare e io ti farei uscire». Continuava a tenere alzati gli occhi al cielo mentre parlava, cosa che Alice parve decisamente incivile. «Oh, ma forse non lo fa apposta», si disse. «Ce li ha piantati in testa, quasi sul cocuzzolo. Beh, in ogni modo, potrebbe anche rispondere alle mie domande». «Come faccio ad entrare?» ripeté a voce alta. «Io resto seduto qui», fece il valletto, «fino a domani». In quell'istante, la porta di casa si aprì e una grossa zuppiera sfrecciò in direzione del valletto, gli mancò il naso per un pelo e andò a fracassarsi contro un albero poco più in là. «O forse fino a dopodomani», continuò lui nello stesso tono, come se non fosse successo niente. «Come faccio ad entrare?» chiese Alice quasi gridando. «E perché dovresti entrare?» disse il valletto. «Se lo sai, rispondi». Lo sapeva, e come, solo che ad Alice non andava che le si rivolgesse a quel modo. «È davvero terribile», borbottò fra sé e sé, «il modo di ragionare di tutte queste bestie. C'è da diventare pazze?» Il valletto pensò che fosse venuto il momento buono per ripetere la sua osservazione, con qualche variante. «Io resto seduto qui per giorni e giorni, salvo brevi pause». «Ma e io che farò?» disse Alice. «Quel che ti pare», disse il valletto e si mise a fischiettare. «Uffa, con questo qua è tutto fiato sprecato», disse Alice disperata. «È completamente cretino». Aprì la porta ed entrò. Let's go. trovò in un'ampia cucina ricolma di fumo dal pavimento al soffitto. Al centro, su uno sgabello a tre gambe, sedeva la duchessa, intenta a cullare un lattante. La cuoca, china sul fuoco, rimestava in una grossa pignatta che si sarebbe detta piena di minestra. Ci deve essere troppo pepe in quella minestra, starnutiva Alice fra sé. Di sicuro ce n'era troppo nell'aria. Persino la duchessa starnutiva di quando in quando, e il neonato starnutiva e strillava alternativamente senza un attimo di sosta. Gli unici a non partecipare allo starnutamento generale erano la cuoca e un grosso gatto che si crogiolava sul focolare sogghignando da un orecchio all'altro. «Vorrebbe spiegarmi, per favore?» disse Alice un po' intimidita, poiché non sapeva se stava bene che una bambina parlasse per prima. «Perché il suo gatto sogghigna in quel modo?» «È un gatto del Cheshire», disse la duchessa. «Ecco perché pork!» Pronunciò l'ultima parola con una tale violenza che Alice fece un balzo, ma subito si rese conto che era rivolta al lattante e non a lei. Così si fece coraggio e proseguì. «Non sapevo che i gatti del Cheshire sogghignano sempre. Anzi, non sapevo neanche che i gatti potessero sogghignare». «Oh, tutti sanno farlo», disse la duchessa, «e quasi tutti lo fanno». «Io non ne conoscevo neanche uno», disse Alice con ogni riguardo, contentissima di aver iniziato una conversazione. «È che sei un ignorante», disse la duchessa. «Tutto qui». Ad Alice non piacque affatto il tono di quell'osservazione e pensò che fosse meglio tentare con qualche altro argomento. Mentre ne cercava uno, la cuoca tirò giù dal fuoco la pignatta e subito si mise a bersagliare la duchessa e l'infante con tutto quello che aveva sotto mano. Per prime arrivarono le molle del caminetto, poi ci fu una grandinata di casseruole, piatti e vassoi. La duchessa non ci faceva caso neanche quando veniva colpita. E l'infante urlava già tanto per conto suo che era impossibile stabilire se era per colpa dei colpi o no. «Oh, insomma, stai attenta a quello che fai!» Alice saltava qua e là mortalmente terrorizzata. «Oh, addio, nasino bello!» gridò quando un tegame di insolita grandezza volò rasente il naso del piccolo. Ci mancò un pelo che non glielo staccasse di netto. «Se ognuno si facesse i cavoli suoi», ringhiò la duchessa indiperita, «il mondo girerebbe un bel po' più svelto». «Il che non ci porterebbe affatto avanti», disse Alice, felice di poter esibire un assaggio della sua cultura. «Pensi un po' che faticaccia per il giorno e la notte. Vede, la terra impiega 24 ore a ruotare intorno al suo asse». «A proposito di asce», disse la duchessa, «tagliale la testa!» Alice gettò un'occhiata preoccupata alla cuoca per vedere se intendeva approfittare del suggerimento, ma la cuoca era tutta presa a rimestare nella minestra e non sembrava prestarle alcuna attenzione. Perciò Alice si azzardò a riprendere la tirata. 24 ore, mi sembra. O sono 12, io...» «Oh, non mi scocciare», disse la duchessa. «Le cifre mi fanno venire la scarlattina!» E riprese a cullare il piccolo, canticchiandogli una specie di ninna nanna e scuotendolo con violenza. Alla fine di ogni verso, «Niente scale di seta col tuo piccoletto, ma una sberla santissima ad ogni starnuto. Lo fa solo per farti dispetto e irrorarti la faccia di sputo». Coro, al quale presero parte anche la cuoca e il lattante. «Dada un pa! Dada un pa! Un pa!» Quando la duchessa attaccò la seconda strofa della canzone, prese a sballottare il neonato in su e in giù e il poveretto urlava tanto che Alice quasi non sentì le parole. «Gliele voglio cantar quattro e più al mio dodo, poi a lei altra sberla per ogni starnuto, così a forza di pepe nel brodo gli si affinerà fino il fiuto!» Coro, «Dada un pa, dada un pa, un pa pa pa!» Tear falling from your eye. Oh, little girl, please. specialize in love. Prendilo un po' in braccio, disse la duchessa ad Alice lanciandole il parcolo. Devo andare a farmi bella per giocare a croquet con la regina. E si diresse verso la porta. Mentre usciva la cuoca, le tirò dietro una padella, ma la sbagliò per un soffio. Che padella! Commentò la duchessa. Alice prese il bimbo al volo, impresa non facile, dato che era una creaturina dalle fattezze strampalate che brancicava con gambe e braccia in ogni direzione. Neanche fosse una stella marina, pensò Alice. Il povero esserino sbuffava come una locomotiva quando le arrivò addosso e continuava a raggomitolarsi e a stiracchiarsi, tanto che dopo un minuto trascorso senza farlo cadere, le parve di aver stabilito un record. Una volta trovato il modo meno disastroso di cullarlo, che consisteva nel comprimerlo in una specie di nodo, tenendolo ben saldo per l'orecchio destro e il piede sinistro affinché non si sciogliesse, uscì fuori all'aria aperta. Se non lo porto via, pensò Alice, me lo ammazzeranno in pochi giorni. Non sarebbe un assassinio lasciarlo dove si trova? Pronunciò le ultime parole ad alta voce e la piccola creaturina, per tutta risposta, grugnì, omettendo per una volta di starnutire. Non grugnire, disse Alice, non è certo questo il modo più indicato per esprimersi. Il pargoletto grugnì di nuovo e Alice, gravemente preoccupata, si chinò su di lui per vedere cosa avesse. Non si poteva certo negare che il suo naso fosse molto all'insù, più simile a un grugno che a un naso vero e proprio. Inoltre gli occhi erano decisamente troppo piccoli per un bambino. Alice nell'insieme non ne fu affatto entusiasta. Ah, ma forse stava solo singhiozzando, pensò, e lo guardò di nuovo dritto negli occhi per vedere se dentro c'erano lacrime. No, non c'erano lacrime. Se ti stai trasformando in un porcello, caro mio, disse Alice tutta seria, non voglio avere più niente a che fare con te, intesi? Il poveretto singhiozzò di nuovo, o forse grugnì, chi poteva dirlo, e i due rimasero in silenzio per un po'. White shed, you will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean sheds to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In life there's something lacking. Thank you. see them out for dinner with their piggy wives, clutching forks and knives to eat the bacon. One more time. E adesso, che me ne faccio di questa creaturina appena arrivo a casa? Alice aveva appena terminato di formulare questo pensiero quando la creaturina grugnì di nuovo, ma così forte che allarmata riabbassò lo sguardo su di lui. Questa volta non potevano esserci dubbi. Era né più né meno un maialino e di colpo si rese conto che sarebbe stato piuttosto assurdo continuare a portarselo dietro. Perciò lo posò a terra e sospirò sollevata vedendolo trotterellare tranquillamente verso il bosco. «Oh, se fosse diventato grande», si disse, «come bambino sarebbe stato orribilmente brutto, ma come maialino non mi sembra affatto male». E cominciò a passare in rassegna gli altri bambini di sua conoscenza che, come porcelli, avrebbero sfondato, dicendosi «se solo si conoscesse il modo per trasformarli», quando si arrestò un po' stupita nel vedere il gatto del Cheshire seduto sul ramo di un albero pochi metri più in là. Il gatto, vedendola, si limitò a sogghignare. «Oh, sembra una buona pasta», pensò Alice, ma aveva le unghie molto lunghe e tantissimi denti e lei ritenne opportuno trattarlo con ogni riguardo. «Mammolino del Cheshire», cominciò un po' impacciata perché non sapeva se avrebbe gradito il nome. Il gatto si limitò ad allargare il sogghiglio. «Per ora tutto liscio», pensò Alice e proseguì. «Mi dici per piacere che strada devo prendere?» «Dipende più che altro da dove puoi andare», disse il gatto. «Non mi interessa tanto dove». «Allora una strada vale l'altra», disse il gatto. «Basta che arrivi da qualche parte», soggiunse Alice a mo' di chiarimento. «Oh, questo è garantito al limone», disse il gatto. «Basta che metti un piede dopo l'altro e ti fermi in tempo». Alice dovette ammettere che era la sacrosanta verità, perciò provò a fare un'altra domanda. «Che razza di gente abita da queste parti?» «Da quella parte», disse il gatto agitando la zampa destra, «abita un cappellaio, e da quest'altra», agitando l'altra zampa, «abita una lepre marzolina. Va pure da chi ti pare, sono matti tutti e due». «Ma io non voglio andare fra i matti», osservò Alice. «Oh, non puoi evitarlo», disse il gatto. «Noi qui siamo tutti matti. Io sono matto, tu sei matta». «Come fai a sapere che io sono matta?» disse Alice. «Per forza che lo sei», disse il gatto, «altrimenti non saresti venuta qui». Ad Alice questo non parve affatto un argomento probante, tuttavia non ribatté e disse: «E come fai a sapere che tu sei matto?» «Tanto per cominciare», disse il gatto, «i cani non sono matti. Sei d'accordo?» «Boh, sì», disse Alice. «Bene», riprese il gatto, «come saprai, un cane quando è arrabbiato ringhia e quando è contento muove la coda. Io, invece, ringhio quando sono contento e muovo la coda quando sono arrabbiato, perciò sono matto». «A casa mia questo si chiama fare le fusa, mica ringhiare», disse Alice. «Chiamalo come ti pare», disse il gatto. «Vai a giocare a croquet con la regina oggi?» «Magari», disse Alice, «ma ancora non sono stata invitata». «Allora ci vediamo là», disse il gatto, e svanì. Alice non se ne stupì granché, abituata com'era ormai a ogni sorta di stranezze. Mentre stava ancora fissando il ramo vuoto, il gatto improvvisamente ricomparve. «A proposito, che ne è stato del frugolino?» disse il gatto. «Quasi dimenticavo di chiedertelo». «Si è trasformato in un porco», disse Alice tranquilla, come se il felino fosse ritornato in modo normale. «Ah, tipico dei maschi», disse il gatto, e svanì di nuovo. Alice non si mosse, quasi si aspettasse di vedere il gatto comparire di nuovo, ma ciò non accadde, e dopo qualche minuto si incamminò nella direzione dove avrebbe dovuto abitare la lepre marzolina. Di cappellai ne ho già visti altri, si disse. Molto più interessante la lepre marzolina. E chissà, visto che siamo in maggio, forse non sarà proprio matta scatenata. Almeno non come a marzo. E così dicendo, alzò lo sguardo ed ecco il solito gatto seduto su un altro ramo. «Hai detto porco o orco?» disse il gatto. «Ho detto porco», rispose Alice, «e vorrei tanto che non continuassi ad apparire e a scomparire. Mi stai tirando scema!» «D'accordo», disse il gatto, e stavolta svanì molto lentamente, cominciando dalla punta della coda per finire con il sogghigno, che rimase ancora per qualche istante dopo che il resto non c'era più. «Che roba! Ne ho visti di gatti senza sogghigno», pensò Alice, «ma un sogghigno senza gatto è la cosa più da svaniti che abbia mai visto in vita mia». Non aveva fatto molta strada allorché avvistò la casa della lepre marzolina. Doveva proprio essere la casa giusta, perché i camini erano a forma di orecchia e il tetto era fatto di pelliccia. Era una casa così grande che non le andava l'idea di avvicinarvisi prima di aver rosicchiato un altro po' del fungo nella mano sinistra e di essere cresciuta fino a circa mezzo metro, ma anche così si appropinquò timidissimamente dicendosi: e se fosse proprio molto scatenata questa lepre? Quasi quasi era meglio se andavo a trovare il cappellaio. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. When the summer's gone, morning found us calmly unaware. Milburn gold into our hair at night. Thank you.